Mila, mila, mila! 100, 1000, 10.000 volte mila! Ai, ai, ai! Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. 9 minuti, ci siamo cari ascoltatori per una nuova puntata con voi fino alle 11 di Uno Nessuno 100 Milan. Ci siamo con l'Alpino in regia, la nostra redazione da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Il buon Leonardo Manera forse oggi non sarà fisicamente con noi, voi dite chissà che novità, ma non ho capito bene, forse il colpevole di tutto questo sono io. Ma lo appureremo tra poco. Se comparirà alle 9.30 spiegheremo perché è arrivato fin qui. Se non comparirà svelerò il motivo della mia colpa. In ogni caso, siamo pronti, caro Alpino. Voi potete chiamarci, 800 24 0024 è il numero per connettersi con noi e dire la vostra. 349 238 6666 invece, lo sapete, è il numero per i vostri WhatsApp, anche per gli audio. I will not be easy. And it will not be easy. Signore, io adesso nel ricordare questa conta a scopo civico che faccio da 59 giorni comincio a essere un po' arrabbiato. Cosa succede? Da 59 giorni, lo sapete, ogni giorno inizio la trasmissione così, ci sono 18 pescatori partiti da Mazara del Vallo per andare a pescare i pregiati gamberi rossi da portare sulle nostre tavole e che sono stati sequestrati e sono detenuti in Libia, a Bengasi, dalle truppe del generale Haftar, senza un motivo particolare. L'accusa di aver violato le acque a prevalente interesse economico, anzi esclusivo interesse economico libico. Sono un po' arrabbiato perché mi sembra di urlare contro i mulini a vento, di essere qui l'unico, uso questa espressione milanese, l'unico pirla che ne parla. Cioè non interessa a nessuno questa cosa. Non c'è un telegiornale. Sì, magari c'è un servizio ogni tanto. Non c'è un giornale che mette in prima pagina questa notizia. 59 pescatori così, abbandonati, là. Non frega niente a nessuno. C'è solo il Covid. Dobbiamo parlare solo di Covid. Possono crepare là, a Bengasi. Sono un po' basito, ripeto. 59 giorni sono stati fermati, erano a 40 miglia nautiche da Bengasi, 12 miglia è il limite di acque territoriali, 40 miglia perché la Libia ha deciso che il suo esclusivo interesse economico arriva fino a 74 miglia dalla costa, hanno deciso così loro unilateralmente e noi glielo concediamo e li lasciamo là. Vabbè. Per quel che riguarda invece la vicenda del Covid, ma che dire, c'è una pandemia di informazione, ormai non si capisce più niente, ormai apri il microonde al mattino e ti viene fuori un virologo che ti parla del Covid, apri il frigorifero e ci sono le trasmissioni sul Covid. E poi in questa massa di informazioni non si capisce più niente, i tamponi veloci non funzionano più, sancisce così Cristiano Ronaldo insieme a Rocco Siffredi. E a loro, due noti virologi, risponde il professor Burioni, che forse fa il calciatore. Guardate, uso l'ironia perché non si capisce più niente e quando si danno 8.000 informazioni il cervello va in pappa, non sa più cosa discernere tra il giusto e il non giusto, tra l'informazione buttata lì e quella che non si sa. Ma guardate che quando Cristiano Ronaldo ha detto, poi ha tolto il commento dicendo i tamponi veloci sono bullshit, ha scritto così bullshit, che insomma, diciamo in un eufemismo, sono delle stupidate, Burioni gli ha risposto, ma Bassetti, che fa anche lui il medico, l'abbiamo avuto qui, ha detto Cristiano Ronaldo forse interpreta il sentimento di molti italiani. E allora tu chi credi adesso, a Burioni o a Bassetti? A Bassetti o a Burioni? alla fine dici vabbè, seguo Rocco Siffredi e faccio prima. Ieri vi ricordate che ho messo in apertura l'audio per me allucinante del consulente del ministro della salute Speranza, Ricciardi, che ha detto ormai puoi prendere il Covid in città come Milano e Napoli semplicemente entrando in un bar. E allora uno dice, allora perché sono aperti i bar? Scusate se tanto mi dà tanto. Sentite Ricciardi ancora. Ormai in aree come Milano, come Napoli, uno può prendersi il Covid entrando semplicemente in un bar, in un ristorante. Cioè entrando semplicemente in un bar, varchi la porta e prendi il Covid. E allora un cittadino si chiede, e allora perché li tenete aperti fino alle 18? Ma il cittadino non deve chiedersi le cose. Oggi Massimo Gramellini sul Corriere della Sera. A Milano uno può prendere il Covid entrando al bar, dice Walter Ricciardi. Può darsi abbia ragione, non sono certo un virologo del calibro di Cristiano Ronaldo che sbertuccia i tamponi sui social, ma se anche fosse, sarebbe questo il momento e il modo per dirlo? Emotività non fa rima con verità. Basta aprire un sito, la TV, per trovare un medico, un politico che parlano di tsunami, gente che rischia di morire per strada, orde di disoccupati pronti a mettere a ferro e fuoco la città. Negli ultimi millenni la notizia della fine del mondo è sempre stata lievemente esagerata, ma non è questo il punto. Il punto è che certi slogan terrorizzanti da trono di spade, l'inverno sta arrivando, avrebbero avuto ancora un senso all'inizio dell'estate, quando si trattava di mantenere in allerta un popolo che considerava il peggio alle spalle. Ma ora, tranne qualche sparuto citrullo, tutti viviamo con la scimmia della paura addosso. Che senso ha continuare ad alimentarla, evocando di continuo lo scenario degli ospedali intasati che già popola gli incubi di milioni di anziani? Secondo la leggenda, dopo Chernobyl, Andreotti disse che bastava lavare un po' meglio la verdura. Quel diavolo avrebbe minimizzato l'apocalisse. Ma forse i suoi eredi esagerano dal lato opposto, pensando che si governi meglio col panico che con la serietà. Meno tweet e più autobus, per favore. Così conclude Gramellini e io sono d'accordo. Ma oggi voglio allargare gli orizzonti. Forse basterebbe aprire la mente e guardare un po' lontano a noi, da noi. Per esempio, voglio andare oggi in Giappone. Giappone è uno di quei paesi dove i contagi sono non sono stati tantissimi rispetto alla popolazione e sono anche molto diminuiti ultimamente. Allora io ho detto, voglio chiamare una scrittrice, ricercatrice, docente universitaria che da anni risiede in Giappone. È anche una scrittrice che ha scritto dei libri meravigliosi. Uno, Quel che affidiamo al vento, è diventato un caso internazionale addirittura. L'ultimo invece è Tokyo tutto l'anno, che vi consiglio di leggerlo, perché non è una guida di Tokyo, è una guida per innamorarsi di Tokyo e del Giappone, paese che io non ho mai visitato, ma la curiosità a questo punto mi è venuta. Allora saluto Laura Imai Messina, che ci parla dal Giappone. Buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a voi. È ovviamente tardo pomeriggio. Che ore sono in Giappone in questo momento? 5:10, esattamente. Ecco. Senta, Laura Imai Messina, ci aiuta a capire un po' in Giappone come hanno affrontato tutta questa pandemia. Oggi leggevo che è un paese in cui, vabbè, già non si stringe la mano, piuttosto si saluta con l'inchino, ci si è abituati a tenere spesso, sempre, la mascherina, già anche negli anni precedenti. Questo forse ha aiutato? Sì, decisamente. Devo dire che effettivamente rimane a tutti gli effetti un po' un mistero anche per i giapponesi come mai il numero dei contagi sia così limitato, però ormai è abbastanza chiaro che insomma non si può addurre tutto a un solo elemento, insomma vanno considerati una pluralità di cause sia legate al comportamento sociale, quindi la mascherina, la distanza fisica, quindi proprio un comportamento sociale dei giapponesi, sia varie ricerche che hanno effettuato in laboratori appunto universitari, sia misure prese dal governo, quindi effettivamente una città come Tokyo, che corrisponde per superficie alla Lombardia, perché ci sono ben 36 milioni di abitanti con questi treni pieni di persone, no? Tanto gli addetti della stazione, di queste immagini più tipiche, no? Sono gli addetti che spingono. Sì, sì. sì, le persone per farle appunto aderire maggiormente e far entrare altre persone, insomma è abbastanza impressionante. Tuttavia, devo dire, una cosa che funziona, ma proprio in generale in Giappone, è quello che viene chiamato in giapponese, ora dico questa frase, dojo atsuryoku, cioè pressione di gruppo, nel senso che indossare la mascherina in questo momento è proprio, come posso dire, fa parte delle buone maniere, è un'abitudine culturale. È vero che la mascherina viene indossata, è sempre stata indossata da circa 100 anni, un po' come, non so, ad esempio se gira l'influenza, allora in treno tutti la indossano, donne magari incinte comunque la indossano, persone malate con basse difese immunitarie, a volte semplicemente per difendersi dalla secchezza, ecco, dal freddo, oppure perché una non si è truccata, allora indossa la mascherina. E quindi diciamo che non c'è una resistenza, ma soprattutto è vero che d'estate tendenzialmente non si indossa perché fa caldo, e tuttavia, ecco, il popolo giapponese tende comunque, anche senza una pressione, come posso dire, dall'alto, senza avvertire l'autorità, a seguire le regole, perché ci si influenza, come posso dire, in modo reciproco. Ma questo è un tema molto interessante, perché quando si guarda all'estremo oriente uno dice la Cina, però la Cina è lì è un po' anche una dittatura, le libertà sono compresse. Invece il Giappone è un caso molto interessante, perché il Giappone è un paese libero dove le libertà sono garantite, dove il comportamento sociale, ci sta spiegando Laura Imai Messina, serve reciprocamente a una salvezza, a una salvezza collettiva. Ci può spiegare come è stata trattata questa vicenda? Cioè, qui non so se segue i siti in Italia, c'è quella che viene chiamata l'infodemia, proprio per me non se ne può più, non si parla d'altro, TV, radio, giornali. In Giappone? Nel senso, se ne è parlato molto, ovviamente in modo quasi, come posso dire, ad onde, no? Nei momenti di maggiore stress si guarda anche molto all'estero. Il Giappone è un paese che comunque ha molta consapevolezza dell'estero, quindi anche le notizie sull'Italia, per dire, entrano nei notiziari. Tuttavia si tende, ma questa è proprio una regola generale, non legata semplicemente al coronavirus, si tende ad armonizzare, nel senso, anche durante un telegiornale c'è sempre un angolo di evasione, c'è sempre un cercare di non esagerare, come posso dire, nel negativo. Quindi ci sono le notizie, per dire, sulla fioritura in una certa zona del Giappone, questo proprio in genere. Infatti la prima volta che vidi questi telegiornali, ricordo anche la reazione di altri ragazzi stranieri intorno a me, sono arrivata 15 anni fa, quindi parecchio tempo fa, era quasi infantile, no? C'era quasi, avevamo tutti la percezione di un telegiornale che doveva soltanto in qualche modo terrorizzarci. E invece anche questa questione del coronavirus è stata trattata come effettivamente fanno in genere i giapponesi, cioè cercando di non andare mai all'eccesso, sempre equilibrando. Ad esempio la mascherina, c'è stato un periodo in cui era, come posso dire, se ne parlava molto, si spiegava anche con molta calma, perché non c'è mai questa esplosione emotiva, ma proprio nel linguaggio, proprio nella lingua giapponese, per dire, non ci sono parolacce, perché proprio si tende sempre a tenere molto calmo il tono del discorso. Meravigliosa questa cosa, no, scusi, non ci sono parolacce nella lingua giapponese. Cioè ci sono pochi termini che vengono, come possono significare, possono essere tradotti come vogliamo, perché a seconda dell'intensità. No, ma è stupenda questa cosa, cioè pensate già cari ascoltatori, questo non esiste, il senso della parolaccia, dell'insulto, no? C'è più armonia. Beh, non è male. Anche quando si parlava appunto di mascherine, poi durante l'estate, che ci sono ad esempio dei problemi per cui c'è appunto non so, magari anziani che non accendono il condizionatore, quindi c'erano, come dire, un problema maggiore, cioè la mortalità dovuta magari a dei picchi di caldo non affrontati, come posso dire, propriamente. Quindi il presentatore, ricordo che durante questo telegiornale per quasi una settimana spiegava come lui, cioè parla sempre in prima persona, un po' c'è un distacco, no, da questa immersione completa nella notizia terrificante. Anche lui aveva provato a togliere la mascherina ed effettivamente si respirava meglio, quindi se si manteneva una distanza di sicurezza era possibile comunque toglierla, e questo a fronte del fatto che non c'era, come posso dire, una normatività dall'alto, perché in Giappone tendenzialmente neanche il lockdown ha avuto non c'è mai un obbligo, cioè non è che poi si andava in carcere come posso dire, non c'era la multa, non c'è il drone, semplicemente i giapponesi sanno che devono fare una determinata cosa. Sì, cioè se diciamo l'autorità, uso questo termine magari sbagliato, comunque le istituzioni invitano e dicono bisogna fare così per il bene collettivo, lo seguono. Naturalmente il giapponese è portato a seguire questo. In generale sì, è molto individualista, al contrario di quello che si crede, cioè c'è spirito di gruppo, ma c'è un individualismo molto forte, semplicemente perché poi le conseguenze ricadono sull'individuo. Quindi sono stati fatti vari studi e hanno, come posso dire, spiegato che non è un semplice, come dire, seguire il gruppo in modo pedissequo, semplicemente una, come dire, rivedere le cadute, perché se io mi comporto in un certo modo e poi come risultato ho, per dire, una città completamente sporca, oppure tutte le persone che appunto non rispettano le regole, diventa fastidioso per il singolo e quindi tendono ad adeguarsi. E un'ultima curiosità, poi voglio chiedere due cose sul libro perché mi ha molto incuriosito. Ci sono i virologi, cioè quelli che parlano, i vari dottori, i vari medici, le varie posizioni, oppure ci sono delle voci della scienza univoche, una, due, tre, e che non vengono messe in discussione? No, devo dire, ecco, questo protagonismo dell'esperto manca, per fortuna, quindi non c'è l'epidemiologo star, ecco. Si tende tendenzialmente a non attribuire questo tipo di ruolo, cioè che poi un pochettino si finisce, mi sembra, da quello che vedo da qui, si finisce un po' per litigare, come posso dire, passare, no? Si entra un po' nello spettacolo oltre che nella scienza. Invece la scienza sempre, ecco, in questo senso si rimane all'interno del contesto. Quindi, per dire, ci sono degli studi interessantissimi sia sul fatto che la circolazione di questo virus fosse già, come posso dire, precedente, fosse entrata precedentemente in Giappone in una forma lieve, questo abbia in qualche modo immunizzato di più i giapponesi, sia un altro studio che invece si basa su uno dei vaccini che sono obbligatori, tra virgolette, sempre in Giappone, e invece soltanto facoltativi in Europa. E quindi devo dire, ci sono una serie di studi molto interessanti che vengono proposti anche in modo periodico, però questa presenza, come posso dire, si parla di studiosi, ma uno soltanto che emerga in questo modo, per fortuna io credo, almeno dal mio vista, non c'è. Cioè è più facile anche credere alla scienza, non alla persona, si ha anche più fiducia in questo senso, io credo. No, ma io devo dire, stanno arrivando tantissimi messaggi, non so, Laura, ahimè, in Messina c'è un ascoltatore, ascoltatrice, perché dice sono stata in Giappone, sono corretti, è vero, però il venerdì bevono e spingono poi per entrare in metropolitana, non lo so, anche loro, è vera questa cosa, spingono per entrare in metropolitana, ma ce l'ha detto anche lei, ci sono proprio delle persone. È ovvio che sennò non entrano, non anche entra. Io mi sono... soprattutto la mattina presto, io non andrei soltanto sul venerdì sera, io andrei sulle mattine presto, cioè mi sono svegliata per ora, purtroppo l'università è tutta offline, quindi io insegno online, però quando appunto l'università normalmente c'è, io mi sveglio alle 4:30 per potermi prendere un treno senza nessun problema e torno alle 5:51, anzi per essere preciso salgo su quel treno, altrimenti mi metto la folla, ecco. No, io vi consiglio di leggere i libri, vabbè, ma cito l'ultimo per Einaudi, Tokyo tutto l'anno, ripeto, non è una guida, una banale guida, e infatti il sottotitolo è uscito per Einaudi e lo trovate in libreria, il sottotitolo è una guida sentimentale, perché ecco, nel leggere quel libro si capisce davvero come una persona partita da Roma per stare un anno, credo, in Giappone e poi c'è rimasta di fatto ed è lì da diverso tempo, come e perché si sia innamorata di questo paese, che poi racconta in queste righe molto, molto intense, anche spassose e coinvolgenti. Ma cos'è esattamente? Ce lo può far capire in poche parole cos'è che davvero può entrare nel cuore di una persona del Giappone tanto da non lasciarla andare più? Allora, direi innanzitutto proprio le tradizioni, considerando che loro non hanno avuto l'illuminismo, quindi tutto quel bagaglio, io credo, no, di spiritualità legata a tradizioni quotidiane, per dire ogni mese ci sono dei cibi che si possono mangiare solo quel mese, delle decorazioni da attaccare in casa oppure in tutti gli esercizi commerciali, oppure non so, delle cerimonie che si fanno nei santuari, non so, ad esempio se uno deve staccarsi dalle bambole, no? Dalle bambole dell'infanzia, c'è una cerimonia una volta l'anno in cui si portano al santuario per essere bruciate, perché questo è il modo per distaccarsi. È magia, è vera e propria magia, io credo, tutta legata poi a un mondo così completamente diverso che se non lo si affronta, no, con il solito schermo del noi facciamo diversamente, ma ci si lascia un po' andare, ecco, io credo proprio che portino a un diverso sistema di pensiero, compreso il non dire parolacce, quindi affrontare l'altro in una maniera molto più pacifica, molto più armonica, no? Anche questi silenzi che sono inizialmente, è una decodificazione continua. E quindi io credo che possa affascinare fortemente sia ci vuole, se mi permette, forse è una predisposizione, no, glielo chiedo, perché l'impatto rispetto alle vite frenetiche, mi immagino lei partita da Roma, eccetera, potrebbe essere scioccante e respingente. Io no, nel senso, quello secondo me fa parte degli stereotipi, cioè ad esempio, non so, Tokyo è tutta grattacieli, Tokyo è soprattutto casette a due piani, e se uno prende il treno, un treno di superficie, si accorge che i grattacieli sono concentrati in limitatissime zone e tutto il resto sono casette a due piani con il giardino intorno, in cui si va in bicicletta, per dire, alla stazione. I bambini di 6 anni da soli prendono o il treno oppure vanno a piedi a scuola da soli, completamente da soli, perché è una città completamente sicura, non c'è criminalità, non ci sono scippi, i pochi scippi che ci sono addirittura vanno sul telegiornale, per dire, ecco. Finiscono sul telegiornale. Io ricordo una banda che c'era, ma parliamo di anni fa addirittura, che rubavano i portafogli, perché i giapponesi stanno tranquillamente con il portafoglio che esce dalla tasca, si addormentano, perché è un'abitudine culturale, appesi, no, alla metropolitana. E c'era questa notizia quasi sconvolgente per cui stavano rubando i portafogli. Cioè, ovviamente, venuto da Roma, mi è sembrata fantascienza. Ovviamente la notizia, non posso dire il fatto, ecco, il fatto chiaro. Che fosse diventato. No, ma è chiaro, fantascienza, ma in realtà concretezza e attraverso, ripeto, le parole di Laura Imai Messina. Devo dire, stanno arrivando tantissimi messaggi di persone colpite anche dalla pacatezza e dalla capacità di esporre, ma d'altronde Laura Imai Messina è una grande scrittrice, io lo ripeto, approfondite poi con i suoi libri, l'ultimo è Tokyo tutto l'anno, che trovate per Einaudi, ma vi consiglio anche quel che affidiamo al vento, perché è stato un caso editoriale davvero internazionale. La ringrazio, Laura Imai Messina, buon Giappone, come si dice, come si saluta, non lo so, cosa devo dire? Possiamo dire molto tipicamente sayonara. Sayonara, tanto a distanza anche se fossimo vicini, perché c'è l'inchino, ma a distanza ancora di più, visto che ci separano migliaia di chilometri. Grazie Laura Imai Messina. Sono voluto partire così da un caso concreto, no? Spesso si dice appunto, come hanno fatto in Cina a contrastare il coronavirus, ma lì le libertà sono compresse, e invece avete visto, il Giappone si può, con come ci ha spiegato Laura Imai Messina. Ora andiamo un attimo in pubblicità. C'è Manera? No, non lo vedo, allora è colpa mia proprio. C'è Manera? No, Miriam? No, agita il dito, dice no, non c'è, e allora l'ho ricacciato a casa. Questo è il motivo, e spieghiamo tutto tra poco. 1, nessuno, 100 Milan. Il problema, Milan, comportamento e responsabilità sociale. I giapponesi, i cinesi ti sembrano italiani? C'hai ragione, Milan. Comunque è sempre meglio seguirlo Rocco Siffredi che stai davanti. Da ex ufficiale dell'esercito ti dico, mandiamo delle truppe speciali in Libia a riprenderci i nostri pescatori. E Adinolfi oggi cosa dice? Effettivamente no, dai, lasciamolo al suo lutto calcistico. Vabbè. Devo dire che sono arrivate decine di messaggi, io sono contento di apprezzamento per le parole di Laura e Messina, per questa apertura verso una finestra. Qualcuno ci dice bravo, e domani parla della Thailandia, ma forse vogliamo farlo, parlare di altri paesi dove non c'è questa ossessione quotidiana. Però devo dire, è colpa mia se oggi non c'è Manera. Buongiorno. Cos'è successo? Cosa ho fatto di così? Allora, io mi sono alzato presto stamattina, sì, perché avevo mio figlio con me, quindi devo preparare la colazione, e mi sono anche detto, visto che è presto, vado là in radio, Viale Monterosa 91. Bravo. Ed mi ero messo, come si dice, di buzzo buono per arrivare fin lì. Mi faceva anche piacere, devo dire, arrivare ogni tanto. Ma poi mi è arrivata la foto che hai mandato tu sulla chat, sì, della trasmissione, in cui c'era una redazione, sì, esatto, completamente desolata, senza nessuno. Ma adesso una ci sono totale. Le persone, era presto. Sì, hai detto questa, avevi scritto questa è Radio 24, come dire ormai non c'è più nessuno, siamo allo sbando, no, solo questo, solitudine. Questo l'hai detto, sì, tu. Era sottinteso, siamo allo sbando. Per dire, guardate, cioè, mi è messo un po' di tristezza, la redazione è vuota, sono arrivato e era vuota. Sì, vuota. E allora ho detto, perché devo andare a incrementare in modo esponenziale la mia mestizia se anche Alessandro Milan, insomma, che a Radio 24 ormai ha messo delle radici profonde, quindi, come un palazzo di... E ho detto, sto a casa è perché non voglio mia. Incrementare per colpa tua. Se tu non mandassi quelle foto così, appunto, amare, dense di tristezza, io forse verrei anche. Invece a causa tua non sono venuto, quindi, sono stato a casa. Sei riuscito, hai fatto marcia indietro. Sì, ho detto, guarda, stamattina vado a fare colazione al Bar Jimmy con la mia mezza brioche alla crema, prendo la metropolitana che di questi tempi non è nemmeno affollata verso le 9 e arrivo là e poi faccio due chiacchiere anche con gli altri, mi faccio misurare la febbre dalla ragazza con la pistola e salgo. E invece no, è arrivata la tua foto proprio mentre stavo aprendo la porta, E questo mi ha immediatamente fatto fare un passo indietro. Sì. Avevo un passo dentro e uno fuori quando mi è arrivata la tua foto e ho rifatto il passo dentro. Va bene. Comunque, in qualche modo. Adesso, al di là di questa foto, invece sono molto contento perché molte persone mi scrivono grazie ad aver dato voce alla scrittrice Imai Messina, che ha anche un po' stroncato l'inizio di Ansia Mattutina. Infatti sì, è un po' lo scopo. Sì, insomma. Infatti io, rimanendo a casa, ho acceso la televisione e c'era un servizio che ho visto subito stamattina, la prima cosa che ho visto, in cui per filo e per segno si spiegava quello che bisognava fare in casa, sì, per evitare la diffusione del virus, dal disinfettare i sacchetti della spesa al disinfettare le scarpe con l'alcol, sì, a sì, disinfettare i vestiti. Quindi per fare tutto quello che veniva consigliato poi saresti pronto più o meno per le 11:30 ad andare a letto, dedicando tutto il giorno alla disinfestazione, alla disinfezione. Esatto. Quindi, mannaggia, va ragazzi, bene, va veramente. Bene. Torniamo in Italia. Ecco, per esempio, ieri leggevo un articolo di Gian Antonio Stella molto interessante su tutti i ragazzi disabili che in questo momento non hanno la scuola perché sono a casa. Ah, a proposito, aperta parentesi e chiudo velocissimo. Macron, lockdown, Merkel, lockdown leggeri. Cosa fanno? Chiudono i bar, le pizzerie. Cosa lasciano aperte? Le scuole. Chiusa la parentesi, abbiamo detto da 20 giorni qui, l'ultima cosa da chiudere, le scuole, noi da cosa iniziamo? Dalle scuole. Va bene, viva le pizzerie aperte e chiudiamo il futuro dei nostri ragazzi. Ma finita questa polemica, saluto Germano Monti, buongiorno Germano e grazie di essere qui. Buongiorno. In sigla AEC, assistente educativo culturale, quanti siete in Italia più o meno? Ma in tutta Italia siamo circa 60.000, fra 55.000 e 60.000. Siete degli operatori fondamentali per tutti i ragazzi e ragazze che hanno varie forme di disabilità. Perché ci dice concretamente cosa fate durante la giornata a scuola o prima della scuola? Proprio ce lo faccia capire. Ma il nostro lavoro consiste nell'aiutare i ragazzi con disabilità di ogni genere, quindi parlo sia delle disabilità motorie che di quelle psichiche e di quelle anche socioambientali che stanno aumentando tantissimo negli ultimi anni, ad inserirsi, ad essere inclusi nel mondo della scuola. cosa che vuol dire anche tipo, quotidianamente, cioè portarli a scuola, portarli al bagno se hanno bisogno. Portarli al bagno no, anche se spesso ci troviamo a farlo, ma come succede agli insegnanti di sostegno, perché è un compito che spetterebbe agli ATA, diciamo ai cosiddetti bidelli, solo che sono molto pochi, spesso si rifiutano di farlo e quindi spesso capita di loro fare questo, anche a noi. Per questo dico che succede e capita. Sì, sì. Quant'è lo stipendio medio del vostro personale, cioè di voi, che ricordo siete spesso inquadrati, diciamo assunti da cooperative, in genere succede questo? Guardi, in linea di massima io posso parlare della situazione romana, perché è quella che conosco meglio, e lo stipendio raramente supera 1.000 euro al mese, e soprattutto è a cottimo, nel senso che noi siamo pagati esclusivamente quando la scuola è aperta e ci sono i ragazzi che seguiamo, altrimenti no, il che significa che in estate veniamo pagati e in questo periodo poi, vista la chiusura straordinaria, ci sono state già altre chiusure straordinarie delle scuole, però duravano un giorno o due per il maltempo o cose del genere, e questa volta è da marzo fino a settembre non siamo stati pagati, siamo stati messi in cassa integrazione. Per carità, ci sono tante categorie, io non vorrei ogni giorno rappresentare una categoria in difficoltà, ce ne sono tantissime, so che molti mi scriveranno adesso dicendo parli anche di noi, io potendo parlerei e rappresenterei il disagio di tutti, ecco, poi si fanno anche delle scelte. Ma il vostro ruolo è fondamentale, perché stiamo parlando ovviamente della disabilità e la scuola sul fronte degli operatori, che poi ci sarebbe la questione dei ragazzi, no? E delle loro famiglie. Io posso dirle tranquillamente che a Roma attualmente ci sono almeno 10.000 dalle materne alle scuole medie inferiori, alle scuole medie, ci sono almeno 10.000 bambini che senza di noi non potrebbero frequentare la scuola, cioè sarebbero privati del loro diritto allo studio e soprattutto all'inclusione, perché la scuola non è solo studio, è anche socialità, e quindi c'è la necessità di includere chi è più sfortunato degli altri e ha delle grosse difficoltà a esercitare un suo diritto. Voi sentite di avere una voce, sentite di essere rappresentati, oppure sentite così di essere... No, ci siamo dovuti autorappresentare, ci siamo organizzati in un comitato qui a Roma, perché appunto questo sistema che è in capo ai comuni, perché questo tipo di servizio è assegnato dalla legge 104 del 92, che è la legge che riguarda un po' tutto il mondo della disabilità, questo servizio è stato assegnato ai comuni, quindi ogni comune in Italia si regola un po' come vuole, e qui a Roma, ma come in tantissimi altri, alcuni anni fa hanno deciso di esternalizzarlo e di affidarlo a cooperative sociali anziché assumere direttamente gli operatori, come era avvenuto fino al 99. Che è quello un po' che voi chiedete come rivendicazione sindacale, mi passi questo termine, cioè rivendicazione a dire inquadrateci come lavoratori, per cui abbiamo magari un po' più di certezza, più di sicurezza economica. Ma non è solo per noi, perché nel senso che il sistema delle cooperative è completamente fallito, perché in 20 anni ha prodotto soltanto precariato, sfruttamento, disservizio verso i ragazzi e sperpero di denaro pubblico. Lei consideri che il Comune di Roma versa alle cooperative più di 20 euro per ogni ora del nostro lavoro, a noi in tasca ce ne entrano 7. Lorde o nette? No, nette 7, diciamo che il costo lordo si aggira intorno a 10-11 euro, basta fare il calcolo. Perché quando gli ho chiesto i 1.000 euro sono netti o lordi? Scusi, non per un orario, diciamo dalle 30 ore settimanali in su, sono netti. Netti. Però, ripeto, per 9 mesi l'anno. Sì, certo. 10 con la tredicesima. E le ferie ci sono? Sì, ma sono calcolate sempre su quei 9 mesi. Sì. Aspetta un attimo, laddove viene applicato il contratto nazionale, perché noi siamo a conoscenza di molti operatori che in violazione di ogni norma, addirittura in violazione delle delibere comunali, vengono assunti con contratti di collaborazione e quindi ecco, loro sì, non hanno diritto a ferie e a tutte le altre tutele previste per i lavoratori dipendenti. No, ma questo io, guardate, ho voluto dare uno spaccato in questi pochi minuti, anche questo è il risultato di scuole chiuse, Per carità, poi c'è un ascoltatore che mi scrive: sono contento che tu sia convinto che i tuoi figli non prendono il Covid a scuola. Ma chi, che vuol dire? Ma io vorrei sapere questo ascoltatore poi dove vive, perché io vivo a Milano come Leonardo Manera, che insieme a Napoli, secondo alcuni, è la città in questo momento con il più alto tasso di Covid. Quindi forse avrei più paura io di questo ascoltatore che non so da dove mi scrive. Ma è una questione di scelte, è una questione di scelte. Segnalo che Macron e la Merkel, Francia e Germania, hanno detto chiudiamo tutto ma lasciamo aperte le scuole. Qui Germano Monti, che cosa hanno detto anche ieri? La Puglia, chiudiamo tutte le scuole. Non lo so, secondo me è una scelta significativa, ma non perché i bar e le pizzerie, io ce l'abbia con i bar e le pizzerie, ma per carità, sono andato anche i giorni scorsi a prendere la pizza e vado spesso. Però è una scelta culturale, è una scelta di dove si vuole che vada il paese, no? Lei che pensa, Monti? Ma io penso che le scuole debbano restare aperte in sicurezza. Il problema, certo, è che questa sicurezza, sì, non è garantita. Nel senso che io personalmente sono qui a Roma a conoscenza di almeno un centinaio di miei colleghi che si sono ammalati anche gravemente, che sono in quarantena, intere classi che vengono messe in quarantena, vengono isolate. Questo da un lato potrebbe anche dire che il sistema funziona, nel senso che vengono individuati i casi di pericolo. Ma in realtà non è così, ma non è così non per colpa della scuola in quanto tale, ma perché tutto quello che era stato annunciato quest'estate sulle misure di sicurezza, ma, certo, sì, ma con delle cose, adesso le parlo da cittadino più che da operatore, ma anche con delle situazioni al limite del ridicolo, perché abbiamo ragazzi che devono andare a scuola senza banchi, seduti per terra, penso aver visto anche lei le fotografie, e scuole dove invece hanno dovuto mettere i banchi in corridoio perché ne sono arrivati troppi. Sì. C'è un istituto qui a Ponte Milvio che si è ritrovato ad avere tutti i banchi, quelli che hanno posto trapezoidali, sì, sì, diciamo. Dopodiché gli sono arrivati 200 banchi in più, quadrati, ma sempre monoposto, dalla provincia. Quindi quella scuola adesso ha i corridoi invasi da banchi perché non sanno più dove metterli e non si capisce perché non vengano distribuiti alle scuole invece in cui mancano. Va bene, no, ma è chiaro, insomma, una disorganizzazione, per carità, la perfezione non c'è, ma la disorganizzazione forse anche c'è. Io ringrazio Germano Monti, ripeto, rappresentante nazionale, in qualche modo possiamo dire portavoce, uno dei rappresentanti degli assistenti educativi culturali. C'è Leonardo, un ascoltatore, che mi dice: ma è chiaro, tu vuoi le scuole aperte perché non sai gestire il figlio a casa. Ne ho due di figli, però sì, vabbè, ho capito, grazie. È vero, che questo ascoltatore ha ragione. Ha ragione, così. Lui posso invece testimoniare, lui invece conoscendo papà, la situazione. Ma certo, invece lui papà perfetto, insomma, prenderò lezioni da lui. Spero ho vinto la coppa di miglior papà d'Italia. No, non ti ricordo, l'ascoltatore. L'ascoltatore papà perfetto mi darà lezioni, spero, facendomi pagare poco traffico. Giornatela. 1, nessuno, 100 Milan. È meglio che non facciamo confronti con il Giappone perché ne usciamo ancora peggio. In Giappone a Tokyo non si può fumare per strada e nessuno fuma per strada. Le regole, vanno rispettate le regole. Milan, buongiorno. Mi immagino Manera in metropolitana in Giappone essere spinto dentro per riempirla. Ma che immagine. Però scusa, adesso non si può neanche sempre mitizzare così, le regole vanno seguite sempre, ma insomma no, le regole a volte si possono anche contestare se sono regole che non si condividono, pur nella civiltà delle contestazioni, ma non è che uno ti mette delle regole e tu pedissequamente le osservi sempre. Eccolo, le regole vanno, là, le regole vanno osservate. Anarchico, eccolo là. Beh, anarchico, ma allora, altrimenti cosa ci danno delle regole automaticamente? Sì, anarchia maniera. Sì, se le regole io non le condivido, posso manifestare pacificamente, posso fare disobbedienza civile. Adesso, non è che sempre le regole vanno condivise, se sono condivise si osservano, altrimenti regole, le si può anche. Le regole, io sono della Juve, le regole. Vai, Leo! Va bene. Allora, si va a grandi passi verso il lockdown, mi sembra, almeno in certe città e regioni, ma in fondo non ne avremo ancora per molto, alcuni mesi, 5 o 6, e dopo a quanto pare verranno iniettate a personale sanitario, ai soggetti a rischio, le prime dosi di vaccino. per dicembre, fine dicembre, i primi progetti di vaccino dovrebbero essere validati dalle autorità competenti. Lo dice Trump, che ormai manca poco a questa fase, e molti gli danno il cazzaro. Ma ormai lo sostengono anche alcuni scienziati, l'ha detto anche Conte, per dire, quindi forse quasi quasi ci siamo. Ammesso che anche gli scienziati poi non si mettano a litigare tra loro, anzi, vista come è andata finora la situazione, per quando finirà la pandemia e si vedranno meno medici in TV, proporrei una nuova trasmissione, Grande Virologo VIP, per continuarli a rivedere amabilmente anche quando forse ce ne sarà meno bisogno. Però mancano appunto ancora alcuni mesi prima del vaccino, diciamo sei, prima che la situazione cominci ad alleggerirsi. Sei mesi sono un tempo in cui molto può succedere. In sei mesi, ad esempio, si può conoscere una persona, iniziare a frequentarla, uscire con lei, arrivare al momento in cui ci si scambia il primo bacio. E poi si va avanti finché dopo due, tre mesi si comincia a prendere più confidenza, ci si comincia ad abituare all'altra persona, finché dopo appunto sei mesi ci si comincia a guardare in giro per vedere se ci sono altre persone interessanti da frequentare. Insomma, in fondo, dopo sei mesi non è cambiato niente e si riparte da capo. In sei mesi si può decidere di iscriversi in palestra per rimettersi un po' in forma, visto che la pancetta tende a debordare dalla cintura. Ci si va a iscrivere, si fa un pensierino non ricambiato alla ragazza della reception, si striscia la carta di credito e si comincia a sudare con l'obiettivo di tonificare la muscolatura. Il primo mese, i primi due, ma poi poco alla volta, soprattutto nei mesi invernali, subentra la pigrizia e dopo 4-5 mesi si comincia ad avere meno continuità, finché al sesto mese non si va quasi più e la pancetta ricomincia a fare capolino dalla cintura. Insomma, in fondo dopo sei mesi non è cambiato niente. In sei mesi può cercare lavoro, ci si può mettere di buzzo buono per cercare lavoro, scrivere un curriculum adeguato, rinfrescare tutte le competenze, cominciare a contattare tutti quelli che potrebbero essere interessati, mail, telefonate, incontri, colloqui, ma qualcuno dopo alcuni tentativi potrebbe anche perdere la fiducia e lasciar perdere almeno per un po', tornando così al punto di partenza. Insomma, dopo sei mesi potrebbe non essere cambiato niente. Infine, in sei mesi ci si potrebbe dedicare a un hobby, il modellismo, per esempio, costruire barche in miniatura. Per ottenere di quelle barche, di quelle navi in bottiglia che ogni volta che le vediamo pensiamo: ma come hanno fatto a metterle dentro? Cominciare a raccogliere, a catalogare i pezzi e poi con pazienza assemblare, incollare, incastrare, finché un bel giorno ti chiedi: ma chi me l'ha fatto fare? Cosa me ne frega della nave in bottiglia? Perché perdo tempo della mia vita a costruire una nave in bottiglia? Allora lasci tutto lì, vai al bar a bere un bianchino buttando nell'immondizia la poca parte di nave costruita. Insomma, sei mesi possono essere un tempo breve o lungo, dipende da come lo si occupa. Ma siccome in fondo in sei mesi potrebbe anche non cambiare niente, l'ideale sarebbe addormentarsi e risvegliarsi quando ci sarà il vaccino e non pensare più a niente. Dormire e non pensare più a niente. Forse in molti la pensano così. Forse per questo che, causa Covid, è in grande aumento l'uso di psicofarmaci e ansiolitici. Dormire per un po' fino al vaccino, sei mesi, e non pensare più a niente. Visto come sono ottimista oggi. Ah, molto ottimista, molto ottimista. Sei realista, sei concreto. Oggi, scrive un ascoltatore, il Commodoro Manera è un po' sul riottoso andante, è vero. Doveva venire qui e per una foto è tornato a casa. Adesso vuole l'anarchia, ma ricordiamo soprattutto che è Commodoro. Stiamo cercando il ruolo milita, il grado militare giusto per Manera. Commodoro, per ricordare il suo mitico incidente. Ogni volta ti diverti a citare quel dramma, quel dramma sul lago, dramma sul Garda. Potrebbe essere una sceneggiatura, dramma sul Garda. Dramma sul Garda, con papà che uscì da sotto dicendo: cosa è successo, Leo? Giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie, now I live on billboard. And I brought my boys with me. Say what up to Tata. Milan, ricordati sempre una cosa importante, che i migliori genitori sono quelli che non hanno figli. Vorrei proporre un algoritmo per Radio 24 che tagli immediatamente i commenti idioti, perché ne sento parecchi. Ciao, sono un lavoratore dello spettacolo che ovviamente ora non può lavorare perché questi maledettissimi teatri sono chiusi. Ieri ho preso un aereo ed erano tutti seduti vicini, tutti senza distanziamento, che si alzano per prendere i bagagli, tutti attaccati nel pulmino poi per andare in aeroporto. Maledetti teatri, stanno rovinando l'Italia. È l'amarezza del nostro ascoltatore, che immagino condividerai, caro Leonardo. Sì, però vorrei anche dirgli che io mi sono fatto l'impressione che in realtà queste restrizioni non servano in sé, ma sono tutti disincentivi a muoversi. Cioè, lo sappiamo sì. Tutti che nei teatri non ci si contagia, però sono tutti, allora son tutti chiudi, modi per allora dire state anche a le, casa. Allora chiudi anche gli aerei, chiudi gli aeroporti, andrebbero, ferma anche sì, gli perché, aerei. Visto. Sì, certo. Sono d'accordo con te. Queste sono tutte misure per dire state a casa, poi lo sanno anche loro, no? Che nei teatri ci sono misure di sicurezza come in altri posti. In ogni caso, allora, non so se avete sentito il giornale radio, ce ne siamo occupati e io, ieri cosa abbiamo fatto? Vi ricordate? Due giorni che abbiamo parlato di questa vicenda dell'uccisione del professore Samuel Paty, ieri abbiamo trasmesso parte del messaggio di Emmanuel Macron, messaggio in cui secondo me il presidente francese dice delle cose straordinariamente giuste, di valori, di civiltà per cui abbiamo combattuto per secoli e che dobbiamo tenere alte. Lo dico e ringrazio anche l'ambasciata di Francia che ci ha scritto per ringraziare a loro volta noi per avere voluto dare voce a Macron con queste parole. Avete sentito in giornale radio, è successo un attacco terroristico a Nizza, si parla di due morti forse, almeno un morto ma forse due, un uomo di 70 anni sarebbe stato decapitato. Allora, è stato neutralizzato il terrorista, come dire... Allo stato attuale non ci sono grandi informazioni in più, però Leonardo, se tanto mi dà tanto, la modalità mi sembra molto simile. Ecco, i dettagli dicono che sono un uomo e una donna le due vittime e la donna è stata decapitata. Lo leggo con voi delle agenzie, detto dall'ufficiale di polizia di Nizza, Laurent Martin de Fremont, che ha dichiarato questo. Un uomo e una donna uccisi, la donna decapitata, se... La modalità, insomma, mi ricorda inevitabilmente quella di Samuel Paty. Non possiamo giungere ad ulteriori conclusioni allo stato attuale, ma il sospetto è che sia un altro attentato di matrice simile a quella di Samuel Paty. È innegabile, e quindi in quel caso era un estremista, un terrorista islamico. Che dobbiamo dire, Leonardo? Niente di più. Qua noi si scherza, si dice, io domani insomma... No, sono problemi che si vanno ad aggiungere ad altri problemi. Sì, insomma. È soprattutto un tema che, lo ripeto, visto che è tutto Covid, un tema del genere di una portata e di una gravità estrema, c'è tutto un mondo in subbuglio contro la Francia, boicottiamo la Francia, certo a Charlie Hebdo hanno rifatto una vignetta molto irriverente, sicuramente nei confronti di Erdogan e della religione islamica, però la religione musulmana, c'è da dire che insomma c'è uno scontro di civiltà che sta riemergendo in maniera prepotente. No, un anno fa non si parlerebbe d'altro, non trovi? Cioè dei francesi decapitati, sì, certo, per strada. Invece adesso no, noi cercheremo di seguire la vicenda con tutta Radio 24 e ne parleremo anche domani, inevitabilmente. Dopodiché, allora, Leonardo, non è neanche facile. Noi tra poco avremo ospite Luca Bizzarri. Sai che Luca Bizzarri ha scritto un libro, io l'ho letto. Tu puoi fare. Ma veramente, tu dici sempre che li leggi, ti giuro. Magari sfogli una pagina, allora, fai così tu di solito. Ho visto la pagina 74, così dai l'impressione di averlo letto. Non lo farò per Luca Bizzarri, ma se vuoi svelo la trama e anche il finale, ma non lo svelerò. Di solito i giornalisti, anche Alessandra Tedesco, fanno così, aprono una pagina a caso, leggono quella quello pagina sei tu. Per poi dire e fare delle domande. Ho visto a pagina 120, questa cosa è molto interessante. Pierluigi dalla provincia di Ancona, sentiamo, che ci vuole dire Pierluigi? Allora, buongiorno innanzitutto a tutti e un saluto al caporale Manera, comandante della squadra Zappatori. Per chi non avesse fatto il militare, i Zappatori sono quella squadra che si occupa dell'allestimento dei poligoni e che tappa i buchi alle sagome una volta che la squadra ha fatto fuoco. Che ci vuole dire? Allora, detto questo, voglio spezzare una lancia su quello che è stato il discorso di Macron, anche se personalmente, politicamente, non mi è simpaticissimo, né a me né a mia moglie, che è francese, di origine italiana, ma comunque ha fatto veramente un discorso molto molto importante. Ancora più valido oggi, se permette, ancora più valido oggi, visto quello che è successo e sta succedendo a Nizza. Alla luce di quello che è successo oggi, io adesso sto guardando infatti proprio il canale francese, tipo France 24, e la solidarietà va a tutti quei musulmani, la stragrande maggioranza dei musulmani, noi abbiamo moltissimi amici musulmani a Parigi, che purtroppo soffrono di questi continui, chiaro, poi dopo questi pochissimi estremisti che purtroppo fanno questo. Ma cosa, visto che sta seguendo la TV, è riuscito, no, la uso come cronista, è riuscito ad avere qualche notizia allora, in più? Non c'è altri, non ne so dire altro. Quindi c'è scritto, sta dicendo che Castè sta uscendo dall'assemblea pur per andare a rendersi conto un po' meglio della situazione. Francese ha lasciato l'assemblea nazionale, sì, per andare a Nizza. Ecco, quindi ci sono anche diversi feriti, si dice. Al momento, ecco, scorro quello che sta scorrendo sotto i sottotitoli. Ci sarà una riunione al Ministero dell'Interno e tutte quelle cose che normalmente fanno. Pierluigi, guardi, io la ringrazio, c'è da dire che, ripeto, è una vicenda che in altri tempi occuperebbe le prime pagine anche dei giornali italiani, oltre che ovviamente quelli francesi. Ma è terribile, ripeto, qualche giorno fa l'uccisione e decapitazione del professor Samuel Paty, adesso a Nizza pare due vittime, una donna decapitata e un uomo invece ucciso. Ed è stato neutralizzato l'assalitore, non si sa molto di più. Ripeto, la dinamica sembra molto molto simile e la matrice rispetto a quella di Samuel Paty. Comunque andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Che ho ragione io e che il libro di Luca Bizzarri io l'ho letto, ora rivelerò il finale di questo scherzo. Hai letto quindi l'ultima scherzo, pagina? Scherzo, no? Luca Bizzarri, ecco qua, Luca, buongiorno. Ciao Alessandro, ciao Leo, buongiorno. Ciao, ciao. Luca Bizzarri, scrittore, è uscito questo libro per Mondadori dal titolo Disturbo della pubblica quiete, è un romanzo, no? Io adesso, Leonardo Manera non crede che io l'abbia letto, dopo Luca ma ci sentiamo come privatamente. Fai di solito? No, no. Leggi una pagina, poi citi quella pagina. Ah, l'ho letto, siccome la fortuna anche di essere un po' corto, sono 156 pagine, correggimi Luca se sbaglio, quindi ce l'ho fatta, sì. Ce l'ho fatta ieri. No, e poi adesso avrà anche un sacco di difetti, ma è un libro che si legge velocemente. Assolutamente è una storia che che prende, quindi è breve, secondo me ha altri difetti, ma è di facile lettura. No, dirò di più, è la storia di questi, diciamo, i protagonisti sono due agenti della polizia che a un certo punto incrociano perché chiamati un senegalese, Mamadou, che ha un'insistente richiesta, dice: portatemi in galera. E man mano che si dipana nella notte questa vicenda un po' assurda, un po' da teatro dell'assurdo quasi di Ionesco, uno vuol capire come mai questo senegalese ha solo questa richiesta ossessiva. e poi alla fine, vabbè, insomma, la vicenda non la svelo ovviamente nel esatto. finale. Ma come ti è venuto potresti, in mente? Potresti, ci hai ingolosito, no, potresti dire... lo so, ma beh, guarda che leggendo... In tutte le librerie, per sapere come va a finire. No, perché tu, leggendo veramente, vai avanti e dici: ma adesso voglio sapere perché questo qui ha questa ossessione. No? Raccontano che Pennac, per insegnare ai suoi allievi a leggere, nel senso per appassionarli alla lettura, quando insegnava nei licei, entrasse in classe, leggesse le prime 10 pagine ad alta voce del Profumo di Sushkind, sì, e poi chiudeva il libro e diceva: adesso se volete sapere come va a finire ve lo andate a comprare. E naturalmente il Profumo è costruito in modo tale che tutti andavano a comprare il libro. Chiaro. Sì, devo anche dire che no, lo è un po' sminuito il libro, Alessandro, perché ma sembra che tutto il libro è la richiesta di questo senegalese, no, che ci ha portatemi in galera. No, non è che 156 pagine sono portatemi in galera. Perché lì si apre un mondo in cui Luca Bizzarri ha voluto mettere insieme agenti di polizia, appunto c'è questo senegalese, poi si incontra delle prostitute, un po' posso dire anche il mondo della notte, che è un mondo un po' sommerso che riemerge poi in questo romanzo. Sì, il mondo della notte quando c'era ancora la notte, diciamo. Quando ancora la notte esisteva. Sì, è un mondo che io ho conosciuto, ma che tutti noi insomma abbiamo conosciuto, soprattutto quando eravamo un po' più giovani, e l'ho riportato lì per come l'ho conosciuto io, poi spero di averlo trattato nella maniera migliore possibile. Sì. Sai il genere come si chiama, Leonardo? Ho scoperto black comedy. Perché? Cosa vuol dire black comedy? Soprattutto qual è la differenza rispetto al noir? Esatto. Che è una comedy. Mi fate una domanda, credo che nel noir si rida un po' di meno, nella black comedy un po' di più, ma non so neanche se sia una black comedy o un noir, quelle che naturalmente sono decisioni del marketing che io non ho partecipato, giuro. No, però è interessante, ma è vero, tu racconti che questa storia ti è stata un pochino almeno nell'inizio raccontata, cioè quindi è una storia che in qualche modo è reale. Sì, in mi parte. È stata raccontata da un mio amico poliziotto, ma una ventina d'anni fa, se non di più, mi raccontò proprio di questa storia che gli successe veramente, naturalmente con esiti e comportamenti diversi, ma che durante un giro in pattuglia incontrarono questo senegalese che non aveva fatto niente, ma che chiedeva solo di essere portato in galera. Naturalmente, quindi è vera, proprio anche la richiesta, sì, sì. No? Voleva essere portato in galera. Sì. E naturalmente loro non ce lo potevano portare per due motivi: uno perché non stava prendendo a calci una porta, per cui non poteva certo essere un grave reato, e l'altro è che anche volendo portarlo in galera loro avrebbero dovuto comunque fare tutti quei passaggi burocratici per cui sarebbero rimasti, erano quasi a fine turno, gli toccava rimanere due o tre ore in più al lavoro per nulla, e, no? E quindi questa parte c'è, a portarlo in giro sperando di mollarlo da qualche parte in modo che non facesse altrettanti guai. È qui che dico la surrealtà, perché questa parte c'è ed è ben descritta nel romanzo di questi due agenti, Marco Pieve e Enrico Rossetti, che non sanno cosa fare insieme, perché dici: come fa? Perché dovrei portare in galera uno perché me lo chiede dai calci alla porta adesso? Esatto. E poi c'è la burocrazia, ma che ne facciamo? Ma è regolare. Guarda, secondo me è un po' il racconto del menefreghismo, non dico italiano, ma forse umano, no? Il fatto che davanti a un problema si cerca sempre di o rimandarlo o affidarlo a qualcun altro. Mm-hmm. E così facendo spesso accade, ce ne accorgiamo proprio forse in questi momenti ancora di più, che a forza di rimandare, a forza di sperare che le cose vadano bene da sole, senza agire, poi le cose peggiorano invece di migliorare. Caro Leonardo, Io conobbi anni fa un ragazzo marocchino che era in carcere, è uscito mi raccontava che ogni volta che usciva dal carcere ci voleva rientrare perché per lui era l'unico modo di essere sicuro di mangiare. Quindi faceva dei piccoli reati in modo che ci fosse poi il pretesto per gli agenti per riprenderlo e portarlo in galera. Non so se questo è il finale del tuo libro, credo di no. Non è il finale, ma tu non l'hai letto, io lo so, lui non l'ha letto, Luca, lascia stare. Leonardo, è un po' come noi con i teatri, no? Noi ogni volta che usciamo da un teatro facciamo di tutto per ritornarci dentro, perché è l'unico modo che abbiamo per mangiare. L'hai scritto durante il periodo del lockdown questo libro oppure? No, l'ho scritto prima, poi doveva uscire a marzo, ma non, naturalmente abbiamo deciso di posticipare l'uscita. Dicendo ci saranno tempi migliori, ma abbiamo sbagliato anche lì. Un errore clamoroso. No, tra l'altro il giorno prima dell'uscita buon Luca Bizzarri ha scritto quello che è l'ideale per Leonardo Manera, perché Manera i libri li compra ma non li legge, e Luca Bizzarri aveva scritto su Twitter: a chiunque faccia la recensione migliore senza averlo letto regalo il libro. Quindi Leonardo, vuoi fare una recensione breve del libro di Luca Bizzarri senza averlo letto? Ma è un libro che stupisce, perché Luca Bizzarri non si era ancora cimentato in modo così sostanzioso nella scrittura. Frequenta un territorio che in parte conosce, quello della notte, ma arricchito anche da una dose importante, diciamo, la definirei proprio di letteratura, e soprattutto c'è una descrizione accurata dei personaggi. Pirla, ma questo Pirla qua ha sempre battuto tutti, devo dire la verità. È il re dei proprio, Pirla, è il re dei Pirla. Lo vorrei in casa tutti i giorni. È il re dei Pirla, si sa. No, in realtà, vabbè, ti faccio una domanda sull'attualità, poi ti devo presentare una persona. Tu non ne sai niente, ma è un nostro amico e volevo presentarlo. Okay. Come va in questo lockdown? So che domenica ripartite con quelli che è il calcio. Sì. A Dio piacendo. Però non va che ogni giorno la vivo, credo la viviamo tutti nello stesso modo, no? Col terrore che arrivi l'ora in cui ci dicono quanti sono i contagiati, con la paura di un nuovo lockdown, con la preoccupazione per i nostri genitori anziani, perché ancora la fortuna di averli. Insomma, è un periodo difficile. Naturalmente le notizie di cui parlavate prima non migliorano la situazione. È un momento storico molto complicato, davvero molto complicato. Sì. E bisogna, insomma, stringere i denti, andare avanti. Però Luca, io... Sai cosa mi ha detto rapidamente? Mio figlio ieri, che ha 11 anni, mi ha detto: pensa come eravamo felici prima. Cioè, come se anche un ragazzino si avesse preso consapevolezza del tipo di vita più serena che c'era prima di tutti questi problemi, insomma. Adesso sì, forse siamo così, un po' più consapevoli. Sì. No, tra l'altro mi ha colpito quello che prima ha detto Luca Bizzarri, a dire tante volte di fronte alle difficoltà ci si arrangia, in qualche modo si trova una situazione... di qualche tipo. Allora io non l'abbiamo ancora raggiunto. Noi abbiamo raccontato i giorni scorsi la storia di Walter De Benedetto. Walter De Benedetto, Leonardo, te lo ricordi, è questo signore affetto da artrite reumatoide, è una malattia molto molto dolorosa, che ha diritto ad avere i farmaci a base di cannabis, ma siccome non riesce a ottenere le dosi giuste, allora ha deciso di coltivarsi in casa la cannabis, e per questo adesso deve rispondere all'accusa di spaccio e dell'accusa di produzione in concorso di sostanze stupefacenti. Ha fatto anche un appello al Presidente della Repubblica a dire, ecco, secondo me questo è l'emblema dell'Italia che non sa dare una risposta a persone in difficoltà. Conosco questa storia perché non so, mi occupo ogni tanto di questi argomenti da vecchio radicale. Il problema è che abbiamo un governo di centrosinistra, e quindi apparentemente più portato verso l'antiproibizionismo, e una forza di governo, il Movimento 5 Stelle, che si è presentato come antiproibizionista, e che stanno facendo mosse più proibizioniste di quelle che ha fatto il governo Salvini. Questo è qualcosa che dà veramente da pensare. Semplicemente quello che ha fatto l'ultimo decreto del ministro della salute, che credo che in questo momento oltretutto abbia anche problemi ben più gravi, e cioè di catalogare l'olio di CBD tra i medicinali, distruggendo in parte 15.000 posti di lavoro. Beh, dà molto da pensare, anche perché non ha ancora spiegato perché lo ha fatto. Quindi... No, no, ma noi la seguiamo, tra poco sarà con noi, adesso dobbiamo andare alle informazioni sulla borsa, visto che so che segui questa vicenda, hai questa sensibilità, ecco, te la volevo presentare come storia che noi seguiamo. Però nel frattempo, leggetelo, soprattutto leggilo Leonardo Manera, non fare quello che poi dopo mi chiami e mi chiedi il finale, la trama. No, aspetto una copia gratuita, ovviamente. la puoi far mandare a Radio 24, Luca. Ecco, no, non lo farà. Luca Bizzarri è uscito con Disturbo della pubblica quiete, Mondadori. Ecco, avevo un'ultima curiosità, ma perché il titolo non è invertito, cioè Disturbo della quiete pubblica e invece Pubblica quiete? Anche perché in genere si dice Disturbo della quiete pubblica, c'è stato un dibattito. Speravo che nessuno mi facesse mai questa domanda, perché questa cosa è arrivata dopo mesi e mesi di contrattazione. C'è un problema fondamentale, che c'è già un libro che si intitola Disturbo della quiete pubblica. No, allora, no. Abbiamo dovuto invertire pubblica quiete. No, vabbè, allora è meglio così. Sentite come suona più efficace. Disturbo della pubblica quiete. E sì, insomma, no, di Luca Bizzarri. Grazie Luca, un grande abbraccio e buon ritorno anche a voi. A quelli che è il calcio. Andiamo a sentire. La borsa, devo dire una notizia. Purtroppo ci sono aggiornamenti, perché pare sia salito a 3 il numero delle vittime a Nizza di questo che è un nuovo attentato terroristico. Tra poco. 1, nessuno, 100 Milan. Sono le 10:37 minuti e gli aggiornamenti che dobbiamo dare da Nizza è che ci sono appunto 3 persone che sono state uccise, una donna è stata decapitata e il sindaco di Nizza dice, caro Leonardo Manera, l'assalitore che è stato neutralizzato urlava all'Akbar. Allora capite che a questo punto, lo dice il sindaco di Nizza, la matrice non ha più alcun dubbio, insomma. Si tratta di un attentato matrice islamica, di fondamentalismo, non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco, dice il sindaco di Nizza, ci sarebbero anche diversi feriti, ha agito con un coltello. Allora, vedi che ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, sottovalutare o a non parlare di queste cose poi prepotentemente ti vengono a bussare alla porta. Ma prima ne parlavamo con Luca Bizzarri, che ha detto di conoscere la sua storia, e cioè quella di Walter De Benedetto, che torna con noi. Walter, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi studio e degli spettatori e ascoltatori tutti. Come va Walter? Ricordiamo artrite reumatoide, la malattia, la patologia di cui... Sì, affetto. E tu hai fatto un appello al Presidente della Repubblica Mattarella, per carità, ci sono tante cose che il Presidente della Repubblica riceverà come appelli, eccetera. C'è stato qualche certamente. C'è stato qualche segnale, qualche barlume? No, allora tutto calmo, e si stanno muovendo alcuni personaggi politici. Io non è che però vado a cercare o a bussare, sì, sto muovendo tutto da sé, anche la raccolta firme è andata ben oltre le aspettative e sta salendo molto di più rispetto a quello che ci aspettavamo, anche perché a volte il buon senso colpisce molto meglio di tante parole inutili. Sì, sai che l'altra volta quando abbiamo parlato della tua storia, poi l'ho rilanciato su Facebook e moltissime persone sono incredule di che cosa, perché lo ricordiamo, Walter De Benedetto ha un'accusa, c'è cioè un fascicolo aperto di... Per coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso, questa è l'accusa, no? Scantata a ridere a vedermi con la sediolina di notte, con un bel cappuccio per non farmi riconoscere, che vado col cappellino del popparo che vado a spacciare, capito? Il paesino, c'è cioè, con la macchinetta elettrica, veramente surreale. È surreale, però, il fatto che tu mantenga questo spirito alto, forse. Ma ragazzi, ma che si prenda pure. Che si sia, ormai l'artrite si è presa il mio corpo, non c'è più niente da prendere, da curare, sarebbe troppo tossica la medicina. E sono tetraplegico, ho la compressione, io ce l'avevo quando arrivarono, ma è peggiorata al dell'osseo, che mi sta premendo più della metà, a volte ho visori indecenti. E meno male che sono seguito in maniera adeguata, però ho detto sempre che me ne voglio andare da lucido, che se ne, che si prenda pure il corpo, però la mente no. Da quanti anni convivi con questa malattia in modo così pesante? Dall'88. E la cosa difficile è chi nasce con una patologia o tra virgolette una diversità apparente, ma dentro poi comunque sta bene, e non vive il trauma di perdere, andare su cavalli, insomma, costiere, oppure sciare, oppure andare sott'acqua. Mm-hmm. Sono cose che sono stato fortunato a poter fare. La mia vita, d'altronde, ho amato sempre la natura in una maniera spasmodica, e mi manca tanto, però pazienza, ti ripeto, che ci prenda il corpo. Ma non lo spirito, certo, non lo spirito e l'anima. È tutto ciò che c'è dietro. No, ma tra l'altro ricordiamo, molte persone appunto indignate a dire ma come, c'è un fascicolo aperto per Walter De Benedetto che vuole semplicemente coltivare la cannabis perché deve lenire questi dolori atroci. Però molti hanno detto, Walter dice, ma e se invece questa vicenda giudiziaria fosse un viatico per dire, per darti ragione in qualche modo e dare ragione a tutte le persone come te? Cioè, a volte non si fa una legge e ci sono i magistrati che attraverso delle cause sanciscono dei principi che poi da quel momento possono essere validi per tutti. Cioè, vedere la causa non come una persecuzione, ma come un'occasione. Io penso che ognuno abbia un buon senso. Io davanti alla legge tiro sulle mani e obbedisco, però mi condanneranno, penso ai domiciliari, ma io già sono condannato da una malattia, e poi ci metterò anche questa, però è kafkiano, surreale. E comunque poi ogni atto si ripercuote e torno sempre indietro. E quindi può venire nel bene come nel male. Ma tu non pensi che possa invece, diciamo, ritorcersi a tuo favore? Io penso di non aver fatto niente di male, capito? Quindi me lo auguro, capito? Fortemente, capito? Perché comunque potrebbe aiutare me e poi in futuro altre persone, certo. Capito? Una volta che hanno fatto i loro accertamenti, capito, o li terranno opportuno fare questo processo, andremo al processo. Sì, ma a quel punto il processo deve diventare una battaglia di civiltà, cioè se era già in precedenza, capito? Speriamo che lo diventi in maniera positiva, capito? Certo. E che vinca il buon senso. Walter, noi, sì. L'importante, ripeto, è almeno nel mio, parlo per me, non posso essere in questo caso parlare anche per gli altri, però il consiglio è non ribuchiate la parte di voi che si è ammalata, perché è sempre la parte di voi, e di vedersi di voi stessi, e provate a avere il cuore di far sì che anche quando c'è dei dolori insopportabili vinca la mente, capito? Perché, che vinca la mente, chiaro. Si può anche scegliere di riposarsi per 20 ore o 18 ore dormire, poi il resto, però sono scelte personali che alzano le mani. Certo. Walter, no, ma è chiaro, noi torneremo a sentirti. Un abbraccio da qui a distanza, la storia di Walter De Benedetto, che in qualche modo abbiamo deciso di seguire. Ripeto, affetto da artrite reumatoide dall'88 e si ritrova oggi con un fascicolo ad Arezzo. La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso, perché ha deciso di produrre la cannabis perché ne ha bisogno per lenire i dolori. E vederlo affiancato a uno spacciatore è un qualcosa che davvero per me urla vendetta. In ogni caso, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 10:47 minuti, abbiamo sentito che c'è coda anche Amazone, e sai che novità, ma è tornato con noi, ce n'era bisogno, è tornato con noi il professor Janssen, c'è bisogno di un po' di filosofia. Psicologo, deve dire che è la mia qualifica professionale, psicologo, altrimenti non si capisce. Esatto, psicologo. Psicologo. Allora io sono psicologo e fondatore. Lo dica, beh, faccio lo spelling. Psicologo, non sono italiano. Psicologo. Quindi faccio più fatica a parlare bene l'italiano. Psicologo, e mi scuso anzi con il popolo italiano per non avere una corretta da volte, qualche volta, visione, ma è già difficile, no, per un straniero imparare la lingua. Vero, vero. Allora, ma perché. Perché lei è di che nazionalità è lei? Non se lo ricorda. Non importa, è un apolide, va sono bene. Un apolide, va bene, prego professore. Sono da parte di madre svedese e da parte di padre argentino, per questo sono un po' ma ci parli un po' il svedese senso. A sto punto ma io prego, è un bel rompimaroni. sì, questo è svedese, questo, prego professor. Questo è un bel rompimaroni. Sì. Allora io ho fondato il mio metodo, sì. Metodo di stare bene, stare bene. Allora, e in questo periodo sto portando avanti due ricerche molto impegnative. La prima qual è? La ricerca del mio pigiama. Pensavo di averlo messo sotto il cuscino e non lo trovo più. Ma chi se ne frega, scusi. Il pigiama, se non lo metti di sera, ti viene poi il raffreddore e ti fanno subito il tampone. Sì. Quindi devi trovarlo il pigiama. Vabbè. La seconda è una ricerca su un tema fondamentale delle relazioni umane. Che cos'è? Cos'è? La proattività. Cosa vuol dire essere proattivi? La proattività. Vuol dire essere intraprendenti, prendere il comando della nostra vita. Non aspettare che le cose accadano, ma farle accadere. La proattività non è una capacità innata, ma si può allenare giorno dopo giorno. Quindi vediamo insieme qualche esempio concreto di proattività. Vediamo. Per prendere in mano la nostra vita. Per esempio, sei al bar, arriva un tuo amico e ti presenta la sua nuova fidanzata, una bella gnocca di cui è innamoratissimo. Tu allora aspetti che l'amico vada in bagno, poi quando sei con la ragazza parli male di lui, dici è un cane, un malvivente che commette dei reati, così poi lei lo mola e tu puoi andare a vivere con lei. Andare via con lei, questo è un esempio di proattività. Chiama a prendere in mano la tua vita, amico. È proattività, tu chiamala come vuoi, io la chiamo essere proattivi. Va bene. Altro esempio, vuoi regalare a tua moglie una serata romantica. Una persona approvativa cosa fa? Prenota un ristorante stellato, ordina tutto il menù e poi quando la moglie va in bagno lui si strappa un pelo dal naso, lo nasconde nel piatto, minaccia il cameriere di raccontarlo a tutti i giornali se gli farà pagare la cena, così lui va via gratis. No. Ultimo esempio, sei alla partita di calcetto di tuo figlio, ma l'allenatore cosa fa? Lo metti in panchina. Allora tu cosa fai per essere proattivo? Prendi un bel pennarellone indelebile, scendi negli spogliatoi e scrivi tutti gli insulti che ti vengono in mente sulla porta dei bagni all'allenatore. Questa è proattività. No, ma dai. Tutti questi comportamenti vanno bene, sono ottimi. Però dobbiamo anche stare attenti, perché le persone molto proattive hanno anche bisogno sempre di fare qualcosa, altrimenti diventano tristi, sì. E questo non va bene, non la va tristezza. Bene, no. Allora io vi do un consiglio anche per difendervi dalla tristezza. Partiamo con una domanda fondamentale. Che cosa, Alessandro, ci rende più tristi di tutto? Di tutto? Nella vita. Che cosa? Non so, una delusione d'amore. No, in generale. Fare delle cose che non abbiamo voglia di fare. Ah, ecco. Quando tu devi fare una cosa, ma questa cosa la vivi con sofferenza, come un obbligo, questa cosa ti rende triste. Sì. Allora se noi facciamo solo cose che ci interessano, ritroviamo la nostra felicità. Qual è la soluzione? Vediamo. È molto semplice. Noi, per evitare di fare le cose che non vogliamo fare, che sono quelle che ci rendono tristi, noi dobbiamo fingere di essere degli agenti speciali della CIA, dell'FBI, del governo. Adesso mi spiego. Perché così chi sta intorno crede che abbia degli incarichi di grande responsabilità. Di solito è vero, gli agenti segreti non dicono di essere agenti segreti, ma non dovete neanche sopravvalutare le dote dei vostri familiari e amici, nessuno ve lo farà notare. A questo punto, se voi dite che siete agenti segreti, beh, basta attivare un'app che simula una chiamata nel momento del bisogno ed è fatta. Pranzo alla suocera, drin, è il primo ministro olandese. Qualcuno gli ha infilato un tulipano nella ruota davanti della bici ed è caduta. Deve essere problema, vado a salutarmi. Riunione interminabile in ufficio, drin, c'è una questione da risolvere tra Israele e Palestina. E chiamano arrivo. Lei e chiamano lei e tu dici sono agente segreto, devo andare perché sono agente segreto della CIA. Assemblea dominiale, drin. È un altro infiltrato della mafia russa che si traveste da chirichetto per raccogliere informazioni sul Papa. Devo andare a investigare. A investigare lei, sì. Quindi bisogna inventarsi una identità da agente segreto. Così in ogni momento puoi avere una scusa. Se riuscirai a calarti bene nella parte, magari ti metti degli occhialoni, una barba finta per sembrare l'incognito, puoi mollare i parenti e le attività noiose e farti i fatti tuoi. In questo modo finalmente riuscirai a stare bene. Fingere sempre. Un messaggio, grazie dottor Jansen, il mio capo spinge sempre per più proattività, ora so esattamente cosa fare. Vede che le sue teorie... Siamo qui alla vostra disposizione per migliorare la vita di ciascuno di noi. Va bene, grazie. Perché il futuro non è mai il presente. Può essere meglio purché riusciate a fingere, questo ecco, è il mio messaggio. Sempre il messaggio. Ci saluti la Svezia e l'Argentina, caro professore, con lei concludiamo questa trasmissione e ci troviamo domani. Nessuno, nessuno, nessuno, nessuno.